La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 30 di aprile, 16:31 primi, siamo in diretta agli studi della Radio di Milano. Oscar Giannino vi ringrazia, come sempre l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per autoproporre temi o voi stessi alle trasmissioni, sapete che molte, una su due, vengono esattamente da questo. E vi dice subito il tema di cui parliamo oggi, anche se oltre al tema vorrei delle telefonate anche su altro che vi dirò immediatamente. Comunque il numero è 800240024, invece per gli sms 3492386666. Oggi il tema sarà, come ascolterete, Italia alla sanità, perché reduci da tanti anni in cui ci sentiamo dire che i tagli non devono essere lineari ma devono essere fatti secondo criteri di valutazione dei costi standard, di quanto si paga in una parte d'Italia piuttosto che in un'altra per lo stesso tipo di fornitura, vedrete che oggi ancora una volta siamo di fronte al fatto che ai fornitori si chiede in realtà un abbassamento uguale standard percentuale sulle loro offerte del tot per cento. Quindi è una maniera in cui tutto va a carico dei fornitori privati, che devono, o qualunque sia nella loro specialistica offerta, ma la loro offerta, o abbassano il prezzo automaticamente oppure vengono estromessi dalle gare. Allora capite che questo è il contrario di quello che ci siamo sempre detti. Questa non è la spending review, questa è mettere a carico dei fornitori privati il minor costo, senza guardare il come e il perché, la valutazione sugli apparati diagnostici piuttosto che su altri tipi di forniture. Questo è il tema della puntata, quindi siate voi del settore o se siete anche amministratori di ASL, mi interesserebbe capire come la prendete questa misura decisa centralmente dallo Stato. Dicevo, anche altro tipo di telefonate, perché ve lo dico subito, perché qui a Milano si vivono le ultime ore naturalmente prima della inaugurazione dell'Expo. Noi ne parleremo meglio ai Conti della Belva sabato dalle 10 alle 12 e quindi vi do già appuntamento per il primo giorno successivo all'inaugurazione, per così dire, formale del primo maggio. Ne parliamo sabato mattina dalle 10 alle 12. Però ieri sera mi è capitato con un tassista e stamattina ho chiesto a tutti quelli che incontravo, che me lo hanno confermato, la seguente faccenda che e volevo avere conferma da altri tassisti di Milano se sono in ascolto, perché ho appreso da un vostro collega tassista che a ieri sera e anche a stamattina il Comune di Milano e l'Expo in quanto tale non avevano dato alcuna informazione ad hoc per tutti i tassisti di Milano sulle vie di accesso alle diverse porte di Expo, la presenza di eventuali parcheggi per taxi, e risultava, ancora stamattina l'ho chiesto prima di arrivare qua, che gli svincoli dalle autostrade ad hoc per recarsi alle porte d'ingresso dell'Expo sono ancora chiusi. E quindi la risposta che i colleghi auto-organizzandosi hanno dato a come fare ai primi, a cosa dove portare i primi turisti che arrivavano chiedendo di essere portati almeno a vedere da fuori l'Expo, era quella di andare sul sito dell'Expo e stamparsi in un PDF mettendo insieme uno o più fogli A4 le vie di accesso e le corsie dedicate ai taxi. Allora, se è veramente così, e mi hanno detto tutti che è così, capite bene, cari ascoltatori, anche da fuori Milano, che veramente non è solo il ritardo dei padiglioni forse il problema. Però volevo avere conferme da qualcuno, che con i tassisti che si stanno auto-organizzando per capire quali strade è meglio percorrere per arrivare a quali svincoli, se siano aperti o chiusi. Voi direte, non stiamo a spaccare il capello, ho capito, ma siccome il messaggio che viene veicolato è a tutti i privati di non usare i mezzi propri, uno spera che almeno per esempio ai tassisti, che sono un pezzo dell'offerta pubblica di trasporto, sia stato detto che strade percorrere, dove andare di preciso, e pare che invece non sia stato detto. Allora, prima di presentarvi l'ospite e di immergerci nella sanità, un'altra precisazione, perché nella trasmissione di martedì con l'amministratore delegato e direttore generale di Conad, il secondo gruppo della distribuzione italiana, abbiamo parlato del suo libro e dei suoi giudizi taglienti sulle classi imprenditoriali italiane. In un passaggio del suo libro in cui parlava dei problemi del cambio di generazione nelle imprese, abbiamo citato un'impresa, la Galbusera, E io ho citato il giudizio del libro e però l'ho sintetizzato in una maniera impropria, e quindi errore mio e va riparato, perché ho citato insieme a Iomo la Galbusera come una di quelle imprese finite a gambe all'aria per i problemi tra imprenditori di prima generazione e successori. Allora, l'espressione a gambe all'aria è impropria, e quindi mi ha giustamente scritto l'amministratore delegato della Galbusera, Alessandro Pittaluga, e ha scritto: ieri ho ascoltato per caso la sua intervista pugliese. Purtroppo a un certo punto dell'intervista lei cita l'azienda Galbusera rimandando un capitolo del libro Tra l'asino e il cane, asserendo che l'azienda è andata a gambe all'aria. Questo l'ho detto io perché non è testuale nel libro. Si tratta, dice Pittaluga, l'amministratore delegato di Galbusera, di una sbagliata e dannosa interpretazione di quanto detto dall'autore, che trasferisce sul lettore impressioni personali non fondate su una conoscenza della vera storia di Galbusera. L'espressione gambe all'aria significa che l'azienda o è fallita o è passata di mano. Nel libro viene detto che i problemi dell'azienda sono cominciati quando i fondatori Mario ed Enea Galbusera hanno diviso le quote dell'azienda in quattro parti uguali e le hanno date ai loro quattro figli maschi. Questa, dice, uscendo dalle virgolette, cioè dalla citazione Pittaluga, è la parte sbagliata dell'autore pugliese, cioè i supposti problemi dell'azienda. La realtà è quanto segue. Enea Galbusera è morto nel 66. Le azioni sono state ripartite nel 1998 e sono state divise tra due figli e due nipoti. Dopo il 98 e sino al 2011, anno della svolta manageriale, la conduzione dell'azienda era fatta da azionisti manager e Mario Galbusera, che ha continuato a occuparsi della fabbrica. Tra il 98 e il 2011, cioè per 13 anni, l'azienda è cresciuta del 9,7% medio annuo, producendo regolarmente profitti e senza un euro di indebitamento. Nel 2011, dopo la morte di Andrea Galbusera, la famiglia ha ritenuto in modo saggio, umile e inusuale di affrontare al meglio gli anni più difficili per l'economia italiana e i suoi consumi, delegando me, cioè l'amministratore delegato attuale Pittaluga, e la mia squadra di manager. Quanto quindi dunque poi a gambe all'aria, dal 2011 oggi l'azienda Galbusera è cresciuta in modo organico del 10%, portando le sue quote nel mercato nel segmento salutistico dei prodotti da forno alla prima posizione davanti a Barilla, Mondelez, Colussi, eccetera. Ha cresciuto gli investimenti pubblicitari del 50%, unico caso del settore in Italia, ha aumentato i suoi profitti del 40%. Nel 2014 Galbusera ha finalizzato l'acquisizione di Tre Marie con mezzi propri, dunque un'azienda italiana che acquisisce un'azienda italiana. Quale rarità, perché nel 2015 faremo un record storico di vendite e di profitti. E quindi le nostre gambe sono sì all'aria, ma per la soddisfazione. Allora, ho letto integralmente quanto diceva Pittaluga, e colpa mia se avendo letto quella frase del libro di Pugliese non ho approfondito. Doppia colpa, perché Galbusera effettivamente è molto presente nel mercato dell'advertising, quindi avrei dovuto precisare a me stesso i termini veri dell'affermazione di Pugliese. Spero di avere riparato senza nascondermi dietro un dito, e soprattutto ringrazio Alessandro Pittaluga e cari ascoltatori, quindi il problema c'è stato di successione, ma i manager sono stati delegati con ottimi risultati. Questo non toglie che il problema del passaggio generazionale sia un problema di fondo della piccola impresa italiana, ma bisogna essere precisi e bisogna riparare quando si sbaglia. Allora, andiamo alla questione dei tagli nella sanità. E con noi per parlarne il presidente di Assobiomedica. Che cos'è Assobiomedica? È la federazione nazionale di quelle imprese che lavorano nelle, appunto, tecnologie biomediche o diagnostiche, quindi tutte le apparecchiature medicali, servizi di telemedicina, che sono una componente essenziale, come ovvio, dell'offerta di beni e prodotti alla sanità pubblica e convenzionata nel nostro paese. Il presidente è Stefano Rimondi e io lo ringrazio di essere ai nostri microfoni. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio. Allora, la notizia dalla quale partiamo è emersa dall'ultima bozza dell'accordo tra Stato e Regioni, relativo appunto ai contenimenti dei costi della sanità, un contenimento di costi di 2,6 miliardi. E nell'accordo tra Stato e Regioni c'è scritto che gli enti del servizio sanitario sono tenuti a proporre ai fornitori di beni e servizi, quindi la parte pubblica è tenuta a proporre ai fornitori privati di beni e servizi, una rinegoziazione dei rispettivi contratti che abbia l'effetto di ridurre i prezzi di fornitura senza che ciò comporti una modifica della durata del contratto. La rinegoziazione deve garantire un abbattimento su base annua del 4,5% del valore complessivo dei contratti, perché in caso di mancato accordo gli enti la parte pubblica, ha diritto di recedere dal contratto in deroga dall'articolo 1671 del codice civile. Cioè lo Stato decide automaticamente che la sua spending review, invece di essere fatta secondo criteri di efficienza comparata di utilità marginale rispetto al prezzo offerto dai fornitori, come per anni abbiamo continuato a dire che bisognava fare, ci hanno detto che si sarebbe fatto e così via, no, la parte pubblica dice al privato: caro mio, o tu ti tagli il 4,5% oppure io straccio anche il codice civile e comunque tu non hai più a che fare con me. La mia sintesi è corretta in questo caso oppure no? La sua sintesi è purtroppo corretta e va integrata da una considerazione che le forniture che le nostre aziende fanno al Servizio Sanitario Nazionale non sono basate su un listino, per cui uno potrebbe dire va bene, c'è una difficoltà, facciamo tutti un sacrificio. Tutte le forniture non si fornisce al Servizio Sanitario Nazionale uno spillo che non sia tramite una gara d'appalto fatta secondo normative europee e in cui ormai il dato assolutamente prevalente è il miglior prezzo, il prezzo più basso. Ora, se nel momento in cui tutte le forniture sono già state sottoposte al vaglio di gare d'appalto al prezzo più basso, oltre all'iniquità di fare una imposizione unilaterale, io sono all'antica, sono ancora di quelli che pensano che ci sono nei contratti, ci sono due parti che devono avere gli stessi doveri e gli stessi diritti. Evidentemente per chi decise queste norme così non è, c'è una delle due parti che ha meno voce in capitolo, ma al di là di questo risulta che tu cancelli, cioè l'azienda non riesce a sopportare quel 4,5% di sconto imposto, e mi creda, sono tantissime le imprese che non ce la faranno e potranno dimostrarlo con i loro bilanci che quel 4,5% è insostenibile. Ma soprattutto quelle sono le imprese che, avendo vinto la gara, sono quelle che già hanno offerto le condizioni migliori. Quindi supponiamo che l'azienda dica non ce la faccio, a chi passa la mano l'ente appaltante? Al secondo che aveva fatto un prezzo più alto? Questo è il dubbio, no, secondo me qualcuno se lo sarà posto. A parte questo dubbio, a questo punto il punto diventa che la mano la passa a quello che fa con ogni probabilità, se questo diventa il criterio, il più elevato ulteriore ribasso rispetto a quello della gara precedente. Noi abbiamo passato anni a capire che il meccanismo delle gare aggiudicate col più alto ribasso nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, ohimè, è servito a diffondere improprie collusioni, lavori malfatti, reati, eccetera eccetera, perché proprio questo meccanismo è uno dei tanti, oltre a quelli degli affidamenti privati e dei subappalti, che hanno generato le peggiori storie di corruzione su cui indagano le procure di mezza Italia. Ma se capisco bene la risposta alla sua domanda, a chi passano la mano una volta che lo Stato dipende, che afferma che la spending review si fa così, cioè a quel punto lo Stato passa la mano a chi fa il più ampio ribasso rispetto anche ai costi reali determinati dal costo industriale del prodotto. È così o no? Mi sbaglio? Mi scusi. Lei sa benissimo che iter hanno le gare europee, quindi diciamo nel momento in cui disdico devo di fatto fare una nuova gara d'appalto, certo, per stare nelle regole, devo farla secondo i criteri europei, cosa che impiega mesi, ma soprattutto perché qualcuno possa aderire ad un prezzo inferiore a quello di chi aveva vinto la gara, è evidente che devo andare ad un abbattimento delle caratteristiche richieste. È inutile che facciamo finta che sia possibile ottenere questa ulteriore strettoia sui prezzi, perché dovremmo ricordarci che il nostro settore ha perso negli ultimi 5 anni il 25% dei prezzi medi a parità di prodotto. Ora, pensare di introdurre forzosamente un ulteriore abbattimento di questi livelli. No, aspetti, però, questo per dare l'idea, non perché un'analoga percentuale di tagli abbia riguardato tutte le altre maggiori componenti di costo del Servizio Sanitario Nazionale, ma perché con il meccanismo automatico di compartecipazione dei privati, dei fornitori privati, alla riduzione, al contenimento, non riduzione, al contenimento dei costi della sanità, è stato addossato ai privati ciò che non si faceva con i risparmi organizzativi, gestionali, retributivi nella parte pubblica della sanità. Questo spiega, perché sennò chi ha a casa potrebbe capire che il 25% è il taglio che noi abbiamo dato alla sanità. Minimamente. È il combinato disposto di più meccanismi. Uno di questi meccanismi è la progressiva centralizzazione delle gare, si sono ridotte moltissimo le centrali d'acquisto, questo ha provocato l'aumento dei lotti, quindi un maggior interesse delle aziende di andare ad altissima competitività sui prezzi, e di conseguenza c'è stato un calo dei prezzi. L'altro, che sono già state nelle ultime finanziarie, tutte le finanziarie hanno imposto una serie di balzelli. L'insieme di queste due cose, un'aumentata competitività e già tagli apportati anno per anno dalle diverse cose, hanno portato a questo risultato. Ma ripeto, oggi come oggi, pensare che si possa introdurre un taglio forzoso a parità di qualità del bene proposto è una solenne o illusione o bugia. Mi permetto di dire che quantomeno è un'illusione. Chi vince le gare oggi lo fa avendo, da noi, dalle mie parti, diciamo, raspato il fondo del barile. Oggi, sotto a questi livelli qui, si va solo ed esclusivamente se l'acquirente accetta il decadimento delle caratteristiche, delle performance dei prodotti e dei servizi richiesti e offerti. Ora, questa è una cosa che i cittadini devono sapere. No, certo, perché io capisco che la maggioranza di chi ascolta dice vabbè, ma è un taglio ai privati, così fanno meno profitti e così via. E voi capite che dopo il 25% di riduzione del costo sanitario in questi anni, in realtà la sanità, per non tagliare i suoi costi organizzativi e gestionali, vi proporrà inevitabilmente a quel punto dei beni essenziali per dare la qualità del servizio, che sono di qualità inferiore, perché se andiamo a una percentuale di tagli unilateralmente, ripeto, imposti dallo Stato ai privati fornitori, che non può che comportare la decadenza di quello che avrete dal servizio sanitario, che per il resto invece nei suoi costi organizzativi e gestionali col piffero che adotta percentuali secche minimamente paragonabili a quelle che chiede ai privati. Questo, ripeto, dopo anni in cui ci siamo fatti colossali illusioni sui costi standard, la verifica microeconomica comparata nelle regioni ordinarie di quanto costa la sanità. Non è così, come vedete, quindi questa è un'altra cosa in cui le chiacchiere sono tante, i fatti sono quelli dell'accordo di cui vi ho letto testualmente il paragrafo. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione sulle strade. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:49 primi 49 secondi. Stiamo parlando di questo taglio unilaterale ai fornitori privati della sanità, dopo già la compressione dei prezzi praticati in questo anno all'acquisizione dei beni legali da parte del fornitore pubblico. Qualche sms è arrivato però anche per Milano e l'Expo. Per esempio Carlo: a Milano è sufficiente vedere lo stato di viale Forlanini provenendo dall'Ario Porto verso il centro per comprendere che nessun lavoro è stato terminato e che l'accoglienza dei turisti che verranno all'Expo sarà disastrosa. Altri fanno delle rime tra padiglioni e qualche cos'altro. Comunque vedremo qual è l'inaugurazione, ma resta il fatto, qualche tassista che conferma che si stanno auto-organizzando anche loro per vedere quali sono le vie d'accesso, perché effettivamente Comune ed Expo non hanno dato indicazioni concrete. Qualcun altro, per esempio, ne ho visto uno, sono veramente tantissimi a dire la verità, eccolo qua: ho richiesto online il season pass, l'ingresso permanente in data 20 aprile, il sistema annuncia che entro 4 giorni l'acquisto verrà finalizzato, oggi è l'11° giorno, non sono stato richiamato, ho ricevuto semplicemente una mail che dice che hanno ricevuto la mia richiesta e che sarò contattato, domani inizia Expo, quando pensano di concedermi il pass? Comunque ripeto, il primo bilancio lo faremo sabato dalle 10 alle 12 per vedere quale sarà lo stato reale all'inaugurazione dell'Expo da questo punto di vista. Invece sms sulla questione di cui parliamo adesso, diciamo che ci sono la stragrande maggioranza degli sms, lo dico al presidente Raimondi e non mi sorprendo, diciamo, divisi in due filoni. Primo è che se ci si è già praticato una diminuzione del prezzo finale di aggiudicazione così rilevante in questi anni, vuol dire che le imprese fornitrici marginavano troppo e quindi ci sta anche questo. Quindi solidali col taglio imposto dallo Stato unilateralmente. Ripeto, lo Stato che però non taglia la sua parte di costo permanente della sanità. Ok, questo è un primo filone. Un altro filone invece critica me perché dice: ma se sei da anni ti sentiamo dire che i costi dell'acquisizione di beni e forniture sono troppo elevati, alt da anni mi sentite dire che la parcellizzazione delle stazioni appaltanti e di spesa, cioè le famose 35.000 stazioni pubbliche appaltanti e di spesa, induce dei meccanismi di distorsione e collusione. Ecco, questo mi sentite dire, mentre invece con la centralizzazione, che è vero, infatti, come diceva, è una delle componenti, lo diceva anche il presidente di Assobiometrica, dell'abbattimento del costo medio di aggiudicazione, si risparmiano soldi. Ma qui stiamo parlando di un taglio unilaterale su qualunque tipo di fornitura, capite che è il contrario di una logica selettiva comparata di efficienza marginale nel decidere su cosa è possibile risparmiare tot, su cosa bisogna risparmiare tot e su cosa invece no. Qui è lo Stato che dice: o tagli automaticamente o ti sbatto fuori, e questa è un'altra logica e non è una logica di efficienza, è una logica dello Stato che dice: risparmiate voi, cari miei. Ho capito, buoni tutti a fare così la spending review. Sentiamo qualche telefonata. Francesco da Bari, prego. Francesco, buonasera. Dottore, io sono un suo fan. Ognuno ha i suoi difetti, ma venga al punto. Dunque, io sono un imprenditore che lavora da 30 anni nella sanità. E devo dire che ci sono alcune discrepanze, alcune sono molto importanti. Le gare per forniture, così come le chiamate voi, possono essere anche fatte al massimo ribasso, perlomeno fare una media nazionale, ma per i lavori dove oggi, e io ho scritto più volte alla regione, all'assessore, alla sanità, non è possibile fare gare da 3, 4, 5, 6 milioni di euro e fare un ribasso del 60-65. Ma guardi che sono d'accordo, perché ripeto... Non è possibile, perché glielo dico come funziona. Questi appalti vengono poi distribuiti in subappalti, esatto, dove gli altri ci rimettono il sangue. Molte aziende piccoline saltano, come la mia, perché non c'è lavoro, quindi abbagliati da un po' di lavoro prendono ciò che è possibile prendere, e quindi ti trovi uno ad aver avuto sicuramente dei lavori che non oso definire lavori. Due, le piccole aziende chiudono e quindi togli ancora. No, chiarissimo, Francesco, però distinguiamo, perché queste sono le gare di cui parla lei, sono quelle che riguardano manutenzione o realizzazione di opere vecchie o di opere nuove infrastrutturali per la sanità, mentre oggi parliamo dell'offerta di apparati diagnostici, biometrici, apparecchiature medicali, telemedicina, eccetera eccetera. Quindi per questo anche bisogna tenere separata la cosa. L'ho già citato prima, il massimo ribasso nelle gare per realizzare opere è un meccanismo completamente distorsivo, è un'illusione che crea morte d'impresa o che a lavorare siano imprese che fanno nero. Questo è il punto vero, perché altrimenti oltre una certa soglia è inimmaginabile andare. Giuseppe da Belluno, prego Giuseppe. Buonasera Oscar. Sì. Questa è una classica pagliacciata programmata. Allora, se lo Stato mette, al di là di combattere le varie ruberie, ma se lo Stato mette 100 per comprare qualcosa e i 100 vanno nelle imprese, nei dipendenti, perché la gente che messaggia che vuole risparmio deve capire che poi le aziende che produrranno questi macchinari, questi prodotti, dovranno a loro volta o licenziare oppure chiudere la fabbrica e verrà fatta dove? Dove costa meno. Quindi questa è la loro solita logica di pagare meno, comprare tutto a meno, e gli italiani rimarranno senza lavoro. È vero che poi i medicinali, i vari prodotti costeranno meno, ma avremo tutti meno soldi per comprarli. Questa è una classica pagliacciata. Con i margini fissi predeterminati è così, perché la microeconomia serve proprio per determinare soglie compatibili con gli utili e che non buttino le imprese per aria. Quindi se uno decide automaticamente mi serve risparmiare tot, quindi o mi fate risparmiare tot o via, effettivamente il rischio molto forte è quello che dici tu. Presidente Rimondi, che risponde a chi dice: ma evidentemente facevate troppi soldi prima? Ma rispondo con ulteriori dati, perché a noi piace ragionare su dei numeri. In questo stesso periodo noi abbiamo perso 6.000 posti di lavoro. a causa della riduzione della marginalità che è arrivata ormai a dei livelli, per quello che riguarda il mercato italiano, di sopravvivenza per la stragrande maggioranza delle imprese, soprattutto per le piccole e medie, si sono persi 6.000 posti di lavoro. Teniamo presente che nel nostro settore 6.000 su 60.000, in un settore che non è in crisi, perché ha potuto reggere tutto sommato? Perché andiamo benissimo sull'export. Sull'export c'è, essendo l'Italia avendo l'Italia una produzione di eccellenza, sia per le aziende nazionali che per le multinazionali presenti sul territorio, sono produzioni di eccellenza, l'export è riuscita a mantenere le sue quote a livello mondiale, ma il mercato domestico, e qualunque azienda nel nostro settore deve contare su un mercato domestico recettivo dell'innovazione, altrimenti poi non si può neanche fare le polemiche contro chi pensa che l'unica via di fuga è quella dell'estero. Appunto. Comunque il messaggio per me è molto semplice, cioè se lo Stato decide unilateralmente le soglie di abbattimento ai privati, alla fine le imprese private o chiudono o se ne vanno, e questo non è spending review, questo è suicidio, perché lo Stato non vuole tagliare le sue componenti di spesa. Grazie al presidente di Assobiometrica, continuate con la 24, mi raccomando, per l'Expo ci sentiamo poi sabato dalle 10 alle 12.